This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Coming up is the Dazzling Killmen, and that's the name of this band. Yeah. Right after you say the legal ID. So what I'd like you to do, and we'll practice this, is can you say, you're listening to, and then 89.3 WNUR FM, Evanston, Chicago, the new music FM, and then after that you can say, coming up is the Dazzling Killmen. Okay, so you want to practice that? On the count of three, why don't you guys go ahead and try that? One, so just two, to go over it once again, it's you're listening to 89.3, what's up there, and then coming up is the Dazzling Killmen. Okay, so can you guys do that? Two. On the count of three, ready? Two. One, two, three. We listen to 89.3 WNUR FM, Evanston, Chicago, the new music FM. Coming up is the Dazzling Killmen. Beh no, non siamo in una radio di Chicago, siamo sempre Radio Città del Capo, sono le 15:44 minuti primi e siamo sempre in compagnia del dottor Scarpa e del dottor Corrias di ritorno dalla Sardegna e anche del sottoscritto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sì, al buon amico e dottor Corrias che ogni tanto va in Sardegna, fa bene, ci mancherebbe. Noi ne sentiamo sempre la mancanza, a però insomma. Un po' d'acqua comunque. Hai preso acqua, ma di mare o di pioggia? Entrambi. Ah, beh, allora 50-50, ti andrà bene, dai. Quindi chi presentiamo stasera, Babe? Ma un gruppo direi forse anche più sconosciuto di quelli di sabato scorso. Già sabato scorso lamentavamo il fatto che nessuno si ricordava più dei nomi Snow, ma soprattutto chi conosce Dazzling Killmen. Dazzling Killmen che vengono da una cittadina ancora forse poco conosciuta fino a quest'anno, St. Louis. E invece quest'anno... Lo sai, Babe, scusa ti interrompo, che è gemellata con Bologna, St. Louis? No! Te lo dico adesso. È gemellato con Bologna. Caramba, che sorpresa. Caramba, che sorpresa. I nostri gemellati di St. Louis. Beh, comunque di St. Louis non è che sapessi tanto fino a pochi anni fa. In realtà una decina d'anni fa sono andato, c'ho un po' di parentame. Però chi è che conosce St. Louis fino a quest'estate? Poi quest'estate è scappato il morto. È un po' di proteste. A quel punto era un po' che volevo pensare, pensavo a come parlare di St. Louis, di Ferguson in particolare, che è un sobborgo, in realtà una cittadina ormai inglobata nella Greater St. Louis, nella contea di St. Louis. E come ne parlavo? Oh, non lo so, io non è che mi intenda tanto, però a St. Louis sono stato. È un po' come cominciavo a partire, come abbiamo cominciato anche la trasmissione. Erano dei bambini che in una radio di Chicago, non ho mai capito come, introducevano i nostri meravigliosi assassini Dazzling Killmen, perché poi loro stessi da St. Louis si spostarono a Chicago e furono messi sotto contratto da un'etichetta celeberrima, la Skingraft, che nacque come etichetta di fumetti, non, e allegava i CD ai fumetti e 45 giri soprattutto, ma questa è un'altra storia. Comunque una decina d'anni fa andai a Chicago a trovare mia cugina, poi che stava a St. Louis, prendo il treno non avevo mai il concio, non ci lamentiamo dei nostri, ma il treno era molto bello come treno in 6x6, ma la linea ferroviaria era quella dei pionieri. Ma ancora più bello è quando sono arrivato a St. Louis, che era, vedo arrivare in lontananza il Mississippi, bellissimo, poi addirittura un ponte in legno, e io penso, ma si vede che non hanno niente, si sono tenuti almeno il ponte in legno, un po' di memoria delle prime epoche coloniali americana. Col cavolo, ci sono passato sopra con tutto il treno, si sentiva pure scricchiolare. Beh, l'importante è che ha tenuto, babbe, se no non staresti qua a parlare con noi. No, insomma, infatti dopo quello, ma questo è stato solo il buongiorno. Tra l'altro, comunque, babbe, a proposito di St. Louis, già che insomma se note a margine, la città più inquinata nei primi anni 90 degli Stati Uniti, insieme a Stumbleville nell'Ohio, quindi comunque una città molto inquinata, ha dei problemi vari, però anche famosa per essere abbastanza, insomma, noiosa per certi aspetti. C'è un'università famosa, la Washington University, però tra l'altro comunque ha dato insomma modo a Jonathan Franzen, uno scrittore statunitense, di scriverci un libro, La 27esima città, edito in Italia da Mondadori, che è un psycho thriller, e parla appunto di come episodi delittuosi possano cambiare la quotidianità dei cittadini di una città noiosa. Cioè proprio St. Louis parlava, insomma, questo libro parla appunto di St. Louis. Infatti. It hurts when it rains. Beh, insomma, dicevo, arrivo, scendo dal treno, mia cugina mi diceva: ma mi raccomando, quando scendi dal treno non attraversare il Mississippi. E io, boh, ma perché? Perché di là c'è l'ex ghetto nero. Sono passati 150 anni dall'abolizione della schiavitù, che poi in realtà ho scoperto che in Illinois la schiavitù già non c'era, era tra gli stati abolizionisti, mentre in Missouri, dove è St. Louis, la schiavitù era fino all'Ottocento, ovviamente, metà dell'Ottocento, fino alla guerra, era in vigore, quindi molti neri scappavano dall'altra parte del Mississippi e da lì la nascita del ghetto. Beh, insomma, comunque sono arrivato, arrivo, trovo... Effettivamente la stazione è vicinissima al Mississippi, ma non mi sembrava niente di così... Pericoloso. Prendo un taxi... Il tassista era etiope, manco parlava bene inglese, era appena sbarcato, sano. E, però per fortuna, essendo etiope, parlava un po' italiano. E paradossalmente a quel punto, solo che mia cugina stava veramente, non stava a St. Louis, ma stava a più di 20 km in un quartiere residenziale che manco lui sapeva dove stava. A quel punto gliel'ho passata, gli ho fatta chiamare il cellulare e l'ha guidato fino da lei in un misto italiano inglese. Benvenuto in America, non c'ero mai stato. Ho detto, beh, se questo... Il buongiorno non era male. Poi arrivo, ovviamente, villetta da film di David Lynch. Sembrava l'inizio di Velluto Blu, no? Con tutte le villette tutte uguali, il coprato ben rasato. Per fortuna che non è morto nessuno di infarto. Forse perché non gli ho fatto sentire Dazzling Killman. Per una causa. We'll be right back. Vabbè, poi mi sono andato in giro per la cittadina, che è pure molto bella. Il centro è storico, cioè, insomma, è stata fondata all'inizio dell'Ottocento come tante città della frontiera. Poi ci fu pure un Expo nel 1904 dentro... Pure lì. Allora stiamo facendo la città dell'Expo. Però sei stato fortunato, Babe, perché nel 93 ci fu l'alluvione più grossa del Novecento negli Stati Uniti e sondò praticamente il Mississippi e fece parecchi danni. Sì, che è bello grande, un fiume di fango. Infatti, poi si era pensato addirittura a un sabotaggio a una diga poco distante da St. Louis, non si è mai saputo di preciso, però fece danni anche dei morti a St. Louis nel 93, appunto. Sei stato fortunato che sei andato qualche tempo dopo. Ma Babe, tra l'altro, ti dice qualcosa Jimmy Connors? No! Tennista degli anni 80, come? E lui è nato a St. Louis, quindi abbiamo anche una bella rappresentanza di tennisti in questa cittadina. Ma era quello Rissoso, sbaglio? No, quello era McEnroe. Okay. Il gemello, no? Il gemello, era più tranquillo. Jimbo lo chiamavano, Jimmy Connors al secolo, sì, davvero un gran tennista. E se non sbaglio faceva coppia con McEnroe nella Coppa Davis, insomma. Gran bella gente, insomma. Bei tempi. No, io sono andato parecchi anni dopo. Era la racchetta di legno che faceva le persone. Faceva la scena. Sì, perché riuscivano a spaccarla con facilità per terra, come si incazzavano. Era tutta scenografia. Queste cose non le ho viste, però la città non era affatto male, solo che è vuota. Tu arrivi nel centro della città e di giorno, durante la settimana, ci sono gli impiegati, ma di notte si svuota completamente, anche durante il sabato e la domenica. Forse ancora più che a Detroit, il centro storico che è disabitato da forse dagli anni 50-60 ha cominciato a svuotarsi, tranne i quartieri periferici a nord e a est oltre il Mississippi della cittadina, che aveva ragione mio cugino, effettivamente poi col senno di poi aveva pienamente ragione con i casini che sono successi l'anno scorso dopo che un ragazzo è stato fermato e poi sparato e ammazzato da un poliziotto, ma nel 2006 tutto questo io non lo potevo sapere, né sapevo che era una delle città più pericolose degli Stati Uniti, penso la quarta, giù di lì. Però mio cugino evidentemente non era solo paranoia suburbana, anche se stava a 20 km dal centro storico e lì tutto era perfetto, le porte veramente come nei film erano lasciate aperte, non erano chiuse a chiave. Per me era abbastanza sorprendente, non è un film e basta, è anche vero. Poi però nessuno di loro venivano mai in centro, se non per venire al lavoro, e poi tornavano immediatamente in periferia. E l'unico concerto buono che c'era, in realtà, era proprio nel Ghetto Nero, ma nessuno mi ci ha voluto portare. Io... E chi era il concerto? Era Sufjan Stevens, vabbè, comunque, me l'ho persi, peccato. Ma erano Dancing Killmen che suonavano? No, magari. Dancing Killmen erano già andati a Chicago. Ah, ecco. Però se guardate sul nostro blog, che si chiama This is not an exit, non lo diciamo quasi mai, .blogspot.com, beh, insomma, lì ho messo tre flyer di loro concerti in quella di St. Louis. Un gran bel gruppo comunque, Babbe. Vogliamo parlare un po' dei... Quanti lavori hanno fatto? Hanno fatto due LP e poi c'è una raccolta dei loro primi 45 giri che poi andremo a ripescare, belli feroci. La loro ferocia avrebbe dovuto mettermi in guardia. We'll be right back. Ma insomma, altra cosa abbastanza vera che quindi io notai è che effettivamente la divisione c'era, quindi quartieri di benestanti tipicamente bianchi, ma non solo, alla fine in realtà contava secondo me molto di più il tenore di vita, il tipo di lavoro che potevi fare. Se ne stavano nella parte ovest, molto distanti dal centro, e i neri stavano più ammassati vicino, i neri e i poveri stavano più vicini al centro, ma comunque in zone periferiche, quindi nessuno quasi veniva mai in centro, magari quando c'erano le partite di football americano, perché gli stadi erano ancora in centro. Comunque i problemi non è che siano passati. Poi lo stesso Obama, quest'estate, durante i disordini, mi ricordo che si rivolse alla nazione dicendo che tutto questo è un retaggio del periodo quando schiavistico, quando la segregazione razziale era vera sensibile e visibile ovunque. Non è più così, non è più legalmente approvata, ma probabilmente la segregazione adesso la fa qualcos'altro, che ne so, semplicemente il ceto sociale, non ne ho idea. Di sicuro c'è che vedevo i miei parenti, comunque non solo loro, erano amici, stavano sempre in piscine private, scuole private, pagavano un sacco di soldi per starsene al di fuori, distanti dal centro della città dove abitavano, senza godersi per niente e senza avere in comune quasi nulla con la maggior parte dei cittadini di St. Louis. Era tutto molto diviso in compartimenti stagni, un po' come nel film, appunto, ma non era un film. Thank you. Desley Killman da St. Louis questo pomeriggio a Radio Città del Capo, This Is Not an Exit, sui 94.7, 96.250. Insomma, un gran bel gruppo, insomma, portava avanti il canovaccio, quello del rock abbastanza abrasivo del Midwest, no? E ricordiamo tra l'altro la Touch and Go da Chicago, quindi poco distante da St. Louis, questo suono bello è proprio del Midwest, caratterizzava insomma i gruppi. Ricordiamo tra gli altri insomma Girls Against Boys su queste chitarre abrasate. E un bel periodo quello lì per il rock statunitense sicuramente. L'altra volta abbiamo fatto ascoltare qualcosa dal Canada, che ricordiamo comunque il miglior punk rock hardcore di quel periodo veniva o dalla California o dal Canada, non potevi scappare. Però il miglior rock davvero, di quello figlio un po' di un blues malato, veniva dal Midwest. Sei d'accordo, Babe? Ma più che altro era quasi prog, perché i tempi, giusto dottor Corria, erano belli sparpagliati. Sì, ma fa sempre molto strano. Comunque qui si parla di un genere nato poi alla fine non proprio per delle cime a suonare, si pensava più al messaggio da dare. E qui ci ritroviamo questi ragazzacci che sapevano suonare sin troppo bene, utilizzavano tecniche come il contrappunto per fare poi alla fine punk hardcore, perché poi di questo si trattava. Ed è interessante, cioè, sentire una ritmica che prende fondamentalmente dal jazz, una batteria con un rullante senza cordiera, cioè ai tempi si usavano delle cordiere belle riverberate con suoni pieni, questi proprio se ne strafregavano altamente. No, lo puoi dire, se ne strafottevano. Si vede la mano esperta di un musicista, l'altro che... Questo è interessante, soprattutto per la fine degli anni 90, dove si faceva tutto quasi l'opposto. E credetemi, usare un rullante del genere ti entra nel timpani, che è un piacere a sentirli dal vivo. We'll be right back. Beh, questa era addirittura registrata dal vivo. Stiamo sempre sui Dazzling Killmen, e le frequenze sono quelle di Radio Città del Capo, oppure ci state ascoltando in streaming con le nostre scudisciate del sabato pomeriggio. Anche questo sabato pomeriggio siamo stati un po' cattivelli, poi promettiamo di essere un po' più buoni prossimamente. Magari sotto Pasqua, dai, fra un mese, ma giusto perché è Pasqua, mica per altro. No, poi... andiamoci piano, dai, cioè, noi siamo fatti così. Vabbè, la spacciamo così per Pasqua, la facciamo così, calendarizziamo la situazione, ma niente di che. Facciamo finta di essere buoni. Facciamo finta. E comunque, vabbè, non esistono più Dazzling Killmen, parlavamo prima. No, poi sono diventati Colossomite, sempre dentro il giro Skingraft, poi sono trasferiti addirittura a New York, ma questa è un'altra storia, si arriva quasi agli anni zero. Qua erano proprio agli esordi, 92-91, e poi il primo disco penso sia del 93 addirittura, si chiama Dig Out the Switch, se lo volete trovare andate sul catalogo della Skingraft, esiste ancora questa etichetta. E poi il secondo disco si chiama Face of Collapse, ne parliamo raramente dei titoli dei dischi, ma in questo caso penso ne valga la pena, perché non è facile trovare i Dazzling Killmen, già è difficile pronunciarli, ed è anche difficile trovarli nei negozi di dischi, io non li ho mai visti. Beh sì, anche perché l'etichetta non è che poi distribuito tantissimo, era un'etichetta, è stata sempre difficile da trovare, forse la distribuzione in Italia non è stata proprio capillare, ecco. Io viaggiavo di cassettine, come tanti nel circuito. Ma scherzi, c'è da basilare. No, è... Altra cosa carinissima poi da così da dire a proposito di questi pazzoidi è che comunque i loro set live erano abbastanza variegati, se vogliamo, si passava da pazzia allo stato puro, quindi con delle ritmiche come abbiamo già sentito, insomma, da alcuni pezzi ascoltati, a delle robine un pochino più intimiste e più sussurrate, quindi comunque c'era una varietà interessante che li rendeva particolari anche ai palati più fini, ecco, questa cosa andava detta. I got a picture. Keep it in my drawer. It's there to remind me what I die for.